Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Ah, siamo in onda? Siamo in onda? Buon pomeriggio allora, buon pomeriggio a voi, ben trovati e ritrovati sui 103.100 in modulazione di frequenza, sulle frequenze appunto di Radio Città Fujiko, e anche questo pomeriggio siamo presenti per parlare di musica, quant'altro. Io sono Franco Paoletti, al di là del vetro, il nostro immancabile bolognese volante. Buon pomeriggio a lei e ben ritrovato. Buon pomeriggio. Oggi è una giornata un po' così. Se proprio se mi giro, proprio parlare di un buon pomeriggio non è il caso. Sì, infatti. Comunque. Però dalla parte di Imola deve essere ancora peggio. Bene, non pensiamo ad Imola momentaneamente, pensiamo a noi. Est, esatto. Bologna. Ah, ok. Pensiamo invece a noi e vediamo di insomma lasciare tristi presagi di temporali e vediamo invece ma di. Ma perché tristi? C'è tanto bisogno d'acqua, è positivo che piova. Va bene, ma proprio oggi che è domenica, va bene il lunedì, ma il martedì. Siamo noi che però, teniamo insomma, l'attenzione. E assolutamente. La giornata. Dobbiamo dispensare allegria e quindi vediamo di. Vedere che cosa c'è di buono, vero? Questa settimana di musica. E la sua fantomatica redazione musicale avete strapolato un'ennesima puntata scoppiettante. È vero, perché sono tante le uscite discografiche. È stata dura questa settimana, però insomma abbiamo dato il meglio, secondo me, secondo il nostro avviso. La sua avviso. Redazione musicale, Paoletti. Ineccepibile, devo dire, devo ringraziare, soprattutto perché mi fanno veramente un grande supporto, mi aiutano con appunto con siti e quant'altro. Altro insomma con la tecnologia insomma la tecnologia avanza. Con questo quindi... non avere un ottimo rapporto. No, infatti, però insomma né con l'inglese né con la tecnologia, ma pensi un po'. Come facciamo? Come tutti gli italiani del resto. Allora, playlist di oggi devo dire scoppiettante, quindi velocemente perché sono tantissimi pezzi. Oggi è praticamente domenica 2 aprile. Siamo in diretta, puntata numero 13, Easy Pop, 100% musica indipendente. Vediamo di dare un'occhiata alla prima selezione prescelta. Oh, c'è un gradito ritorno, un nostro amico, si chiama Moreno del Signore, che ritorna con un singolo, dopo tanto tempo, con un singolo molto interessante. Si chiama Occhi Aperti. Il singolo è stato scritto da Moreno del Signore stesso, insieme al produttore del brano, Fidel Focastro, con la preziosa collaborazione di Stefano Paviani. Moreno del Signore lo conosciamo perché è un produttore e anche nonché vocal coach, e ha all'attivo già 3 album con la band Days Comunica, è famosa negli anni 90-2000, per poi tornare col suo primo album da solista che incideva, mi sembra, per la Vrek, dal titolo Risveglio. Nel 2020 ha pubblicato il suo Chamber Rock. E che dire, che è praticamente stato il primo artista italiano a pubblicare una cover di Innuendo dei Queen, che ha avuto un grande successo nell'etere. È interprete solista del progetto La Storia del Rock e nel 2023 sono previsti dei nuovi inediti, tra cui questo che andiamo immediatamente a scoprire, Occhi Aperti, Moreno del Signore. Deciso che di figli non ne vuole, si è trasferita a Londra con il gatto e con le sue parole. Viola lo sapeva che era presto per morire, tira giù la corda che comincia il lieto fine. Viola che non tempo per capire, ha preso a casa Wembley e ha 3 canzoni da sentire. Viola che non chiede più a nessuno se va bene, le bastano 2 righe e uno specchio da smentire un po'. Qui non c'è il tuo bar, scritto cosa vuole nelle vene. E per la prima volta non è quello che conviene. Viola lo sapeva che l'amore non arrive, perché non c'è mai posto per un re con due regine. Qui non è Milano, qui non c'è il tuo bar, qui si guida storto, qui non sei una star. Piove giù di tutto, vuoi la verità, qui la prendi in faccia, ma qui la vita. Moreno del Signore con Occhi Aperti. Molto bene, molto bravo, perché appunto alterna l'insegnamento della musica e anche un vocal coach, dall'altra parte insomma la sua vena artistica che l'ha portata proprio in giro per il mondo, e devo dire che una voce possente, bravissimo, e tra l'altro molto simpatico lui. A questo punto, oltre a salutarlo personalmente, vado a presentarmi invece la prossima artista, che viene da Treviso giù di lì. È una cantautrice appunto appassionata di musica sin da piccola, e sceglie grandi artisti come Michael Jackson e Freddie Mercury come punto suo punto di riferimento, e da lì insomma piano piano, oltre a studiare, ha calcato alcuni palcoscenici interessanti, e piano piano è arrivata insomma a un contratto con un'etichetta indipendente, però molto interessante. Questo è il suo nuovo singolo, si intitola Meravigliosa Maledizione, si chiama Desta. Per tutte le volte, per tutte le volte che hai provato a sentirlo davvero, le spinte che non erano sincere, hai sempre capito come vivere l'errore e percepito un solo motore: amare sempre un riflesso di chi sei dentro, anche se scegli male, non darti una colpa non sempre ha un senso. Meravigliosa Maledizione. Sì, molto bene, brava questa anche cantautrice, si sta sperimentando come cantautrice, in questo caso invece lei si è affidata a uno studio tra l'altro di Ferrara, quindi complimenti sempre alla regione Emilia Romagna, sempre così, sempre all'avanguardia per quanto riguarda la musica. A questo punto invece, abbandonando Desta, che è questo nome artistico che si è scelta, andiamo con un altro artista, si fa chiamare Uganda. Uganda è il soprannome di cui molti amici hanno conosciuto Matteo Ugazio, piacentino, classe 1987, chitarrista e cantante dell'omonimo gruppo, è interessato alla musica cantautoriale italiana e improvvisazione che va dal jazz alla musica brasiliana. Questo che ascolteremo adesso è il risultato appunto di tutte queste cose. Quindi Uganda ci presenta Maestri Libri di vita. Ascoltiamolo. Si sveglia ogni giorno senza farsi domande. Si mette i vestiti e prepara le carte. La sorte non c'entra, è maestro di vita. Sa guardare lontano e non deve fatica. Ha imparato studiando che c'è sempre un perché. Ha mischiato le carte sapendo bene com'è, sa dove guardare, sa cosa pensare, sa badare alle cose senza farsi del male, programmando meticolosamente un progetto articolato della mente, una barca in mezzo al mare. Alchimista del bene, guarirà la sua vita, geometria della specie, calcolata con dita, come un sasso che cade giù dal mondo, fluttuando all'infinito nel profondo, una barca in mezzo al mare, qual è il senso di remare? Col rosso e nessuno lo nota, ma lui vede, prevede con occhio capace. Alchimista del bene, guarirà la sua vita, geometria della specie. Allora, ho fatto un primo qua, Maestro di vita è il titolo di questo singolo per la pop edizioni ovviamente, l'etichetta sulla quale incide, Uganda, che è poi è lui, però si fa accompagnare proprio da una band che si fa chiamare proprio Uganda. Questo è il suo nuovo singolo con il quale si presenta a noi e devo dire molto interessante, suoni molto particolari, quindi sì, questa mescolamento di anche etnicità, no? Un po' così particolare, ci piace molto, ci è piaciuta e ottima anche la copertina, devo dire, di questo disco. Maestro di vita, quindi Uganda, ne riparleremo di lui e della band che l'accompagna, perché insomma in questo caso il nome è fuso con la band che l'accompagna. Che dire, che l'album si intitola Aperitivi lunghi, nel caso questo è l'estratto. Detto ciò, aperitivi lunghi, mi piace questa cosa, non lo so, però mi piace, soprattutto la domenica si comincia magari dopo pranzo a fare l'aperitivo e si va avanti fino alla sera. Quindi mi piace molto, lungo. Un aperitivo lungo, questo è l'aperitivo lungo. Bene. Detto ciò, a questo punto velocemente abbiamo anche il prossimo protagonista, Nudda, Non ti chiamerò, scritto tutto attaccato. Cazzi, mi ci incastri, io giro Roma per calmarti. Ti senti solo, allora chiamo un taxi. Resisto ai tuoi occhi, dolce non ricambierò gli sguardi. Non ho colpe dei colpi che non incassi, ma odio forse tra molti dei tuoi ricatti. Ho sempre pianto e mentivi, ora ti ho dato i motivi. Resti composto e mi uccidi. E sono stanca di litigare al telefono. Fai dei discorsi che poi manco mi si spiegano. Le tue parole non contano più. So come non sei quello che dici di essere tu. Quello non sei tu, non sei tu. Non ti chiamerò, chiamerò più. Non ti chiamerò, chiamerò, chiamerò, chiamerò. solito in quello che dici tu. Le tue scuse puoi tenerle nell'esofago. Fra le tue braccia sono scomodo e vomito. Parole che non ho mai detto. Mi rivoltano lo stomaco, lo trovi comico, pensaci meglio. E sono stanca di litigare al telefono. Fai dei discorsi che poi manco mi si spiegano. Le tue parole non contano più. So come non sei quello che dici di essere tu. Se non volete più farvi chiamare o non volete più chiamare qualcuno, mettete in sottofondo questo brano di Nudda e risolvete il problema. Non dovete neanche parlare voi, fate parlare direttamente lei. Non ti chiamerò più. Certo che questi nomi particolari, molto Nudda, musicale però questo brano, molto facile, di quelli che dice lei, hanno un ritornello semplice da ricordare. Sì, questo è il nuovo singolo della cantautrice toscana Nudda, una canzone dalle sonorità, come avete ascoltato, misto urban, c'è pop, anche il telefono punk. In fondo. Sì, sì, molto bello, molto simpatico. La canzone praticamente sta avendo buoni consensi. Nudda nasce a Siena il 2 giugno del 2000 e si avvicina alla musica all'età di 13 anni, trovando in lei appunto la forza e la comprensione, e quindi insomma l'hanno aiutata a uscire da un periodo un po' particolare. Seconda al Festival Estivo del 2018 e semifinalista in Area Sanremo, ha partecipato a X Factor 2021, dove ha racconto qui, sì, subito consensi e apprezzamenti, sino ad arrivare al suo primo singolo, che è praticamente uno scioglilingua, si chiamava non uscirai da qui tutto attaccato, insomma. Questo è il singolo un po' che era uno scioglilingua. Da qui poi si è dato proprio alla musica urban pop con tutti questi mescolamenti, tant'è vero che questo singolo è stato coadiuvato insieme a Takabisha e Red The Prod, appunto per questa etichetta particolare, e dunque ha già dei singoli al suo attivo, ma questo insomma è quello che praticamente dovrebbe darle là. Tra l'altro lei non è nuova appunto X Factor, però ha raccolto anche dei consensi, perché la vincitrice della targa Quirici al premio Bindi 2022, e quindi scusate se è poco. E poi di qui in avanti grandi collaborazioni con artisti come Schiuma ed altri, e devo dire che piano piano sta emergendo. E poi la voce interessante, anche il sound mi è piaciuto molto. Molto molto ritmico il sound. Sì, quindi mai quasi giudicare ballate dall'apparenza, quasi giusto? Ballate. Quindi ascoltare, capire insomma anche tutte questi nuovi linguaggi, capire cosa fanno questi ragazzi, no? Perché qualcosa faranno, creeranno, vero? Adesso invece un brano, diciamo così, in formato classico, un po' più classico. Sì, ce lo annunci lei? Eh sì, in formato classico, perché viene a trovarci Artù, che già ben conosciamo, ci presenta il suo nuovo singolo dal titolo Pietra Latta. È tutto qua, le voci delle donne, i gatti per la strada, panni stesi al sole, il fumo di un cannone, i canti delle suore, una ragazza madre, le luci per le scale e il pianto di un bambino appena nato, e tu non parli più coi tuoi. E la vicina che ti sveglia sempre troppo presto, la domenica mattina come sempre, quando la incontri la guardi e sorridi, rivedi un po' te. Pietra latta è come eterna, rimane sempre quella, la luna in un barattolo, polvere strade, polvere vita, polvere me. Pietra latta è come il vento, la luce di un momento, la vita dentro un attimo, solite strade, solita vita, solito me. L'eternità, il fiume in un abbraccio, il cielo verso sera, chi torna dalla guerra, la neve a prima. primavera. E le cicale fino a non dormire le serrande giù di un bar. E un colosseo di case come stelle, tu che scendi dopo cena a far l'amore nella macchina. E amore profondo è l'acqua del fosso. Fa molto cantautore anni 70 questo Artù e la sua Pietralata, vero? Proprio un brano classico di quegli anni. Eh beh sì, un cantautore, lui è molto legato anche a Rino Gaetano, di cui anche insomma è molto elegante, dicevo, legato a Rino Gaetano e proprio alla famiglia Rino Gaetano. Nel 2017, pensate, l'esibizione in diretta televisiva al concerto del primo maggio, viene poi contattato appunto dalla famiglia, dai familiari di Rino Gaetano. E dietro a questo invito si esibisce con alcuni pezzi, anzi c'è un pezzo inedito di Rino Gaetano che viene poi trascritto e cantato dallo stesso Artù, che ha completato insomma questo inedito. Devo dire che comunque già passo anche il concerto del primo maggio, ma non solo, lui ha iniziato così a cantare nel 2013 con il suo anonimo album Artù e via via insomma ha avuto una carriera molto interessante, perché l'abbiamo visto per esempio al Coca-Cola Summer Festival, l'abbiamo visto insomma a Roma Estate, l'abbiamo visto anche in altre partecipazioni in altri contesti, e poi tra l'altro incide per la Live Music Sony Music, e quindi insomma devo dire complimenti, una voce molto interessante, da scoprire questo cantautore Artù. A questo punto velocemente andiamo con il prossimo protagonista, abbiamo Francesco Lettieri che ci presenta Diventare. E va bene così, posso sempre pensare di essere ancora in orario. Sì, va bene così, mal che vada io tanto mi siederò al piano. Ma poi finisce qui il bagaglio di armi che ho per lottare. Qualche nota, una frase di un mio professore. Dimmi se c'è dell'altro che posso imparare. Insegnami a volare, insegnami a far finta di sapere inventare. Qualunque cosa penso, così io mi concentro e invento un senso al tuo dolore. Insegnami a volare, insegnami a far finta di poter diventare. Volere dentro al vento, così io mi addormento e al mio risveglio sono diventato il mare. E va bene così, oggi il sole è lo stesso che c'era al liceo quell'inverno. Si va bene così, ho scoperto un appunto su un vecchio quaderno. Insegnami a volare, insegnami a far finta di sapere inventare. Qualunque cosa penso, così io mi concentro e invento un senso al tuo dolore. Insegnami a volare, insegnami a far finta di poter diventare. Francesco Lettieri, Diventare, a Easy Pop, puntata numero 13, domenica 2 aprile, Paoletti, domenica delle palme. Ah esatto, non ci pensavo proprio, e invece sì, è proprio così, quindi ci avviciniamo a grandi passi verso la Pasqua e quindi al giro di boa, si penserà poi all'estate che avanza e brani poi musicali che arriveranno. Tormentoni estivi. Allora Francesco Lettieri, velocemente vi dico che è il primo di sette figli figli, questa cosa ovviamente lo ha così come dire, lo ha prostrato, non lo so, è così. Però lui è un pianista, cantautore napoletano, nel 2018 esce con l'album L'alieno al cinema e poi piano piano insomma vince dei si mette in luce, vince dei premi molto interessanti, tra cui il premio AFI, e poi ancora abbiamo vince il premio della Warner Chappell come miglior autore al premio Bindi e poi il primo premio al premio dedicato a Pierangelo Bertoli. Nel 2020 è selezionato fra i 60 semifinalisti di Sanremo Giovani, nel 2021 invece vince il premio Music for the Change nell'ambito di musica contro le mafie e poi insomma viene segnalato anche una menzione speciale al Club Tenco, appunto al premio streaming. Che dire, che veramente le carte in regola ce le ha, una voce interessante e sa fare veramente il suo mestiere, che dire, se sono rose ovviamente fioriranno. E siamo pronti invece per andare con la prossima, appunto prima del break pubblicitario, ultimo brano della prima parte. Certo, partiamo quando vuole lei. Allora, chi viene a trovarci? Lei qua, mi aiuti perché lo sa benissimo. Allora, Erase Theory, Lost It. Che bello questo pezzo dei Eras Theory con Jeff, che ha trovato numerosi stili e generi musicali. Questo è il suo EP, che è una via di mezzo tra diciamo un incontro tra i The Week e i Nine Inch Nails, oppure insomma tra David Bowie, Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Depeche Mode. Tutto questo all'interno di questo EP molto interessante, dalla sonorità veramente che catturano al primo ascolto. Un EP insomma che include appunto dei successi come Lost It ed Stay, acclamati dai media come Kerrang, Rock Sound e tanti altri giornali musicali specializzati in alta rotazione per la BBC e non solo. Complimenti a tutto questo gruppo, questo esperimento. Siamo giunti al piccolo break pubblicitario, rientriamo a breve, quindi non andate via, rimanete lì. Re-listening to Radio City Fujiko, Easy Pop. Sei regista e hai creato un prodotto audiovisivo che racconta la resistenza, il ventennio fascista o la seconda guerra mondiale? Allora partecipa alla Call for Movies dell'Istituto Parri. Entro il 15 aprile manda la tua opera al Parri, verrà inserita nella proiezione pubblica del 25 aprile con la testimonial d'eccezione Giulia Giapponesi, regista di Bella Ciao per la Libertà. Per informazioni redazione @istitutoparri.it.

morti di cui ha anche aperto i loro tour. E poi ancora ha fatto anche la guest star con Caparezza, con tanti altri, l'abbiamo visto al primo maggio, e poi ancora tante altre appunto attività. Ha aperto anche il concerto di Manu Chao, quindi insomma di gavetta ne ha fatta. Questa volta si presenta con questo singolo, che è anticipazione di un album che uscirà fra qualche giorno, quindi ci ascoltiamo K-Hunt con Cenere. Vorrei tenerti con me come una sostanza fisica. Sognarti non mi basta, i profumi son troppo distanti ed i ricordi scomposti. Sognarti non mi basta più, quando ripercorro i miei, immagino i tuoi passi. Se ritornassi come cenere, da tenere con me, e diventassi come cenere, da tenere con me, e all'imbrunire come Venere. Se ti vedessi in cielo, saresti proprio come Venere. Nell'oscurità, la mia prima luce. Ora che siamo qui, dove la felicità non esiste più. Sognarti non mi basta mai, vedessi ciò che sono adesso, potessi dartene un po', avresti quel tanto di ossigeno in più. Sei come una fenice lontana e penso, se ritornassi come cenere, da tenere con me, e diventassi come cenere, da tenere con me, e all'imbrunire come Venere. Se ti vedessi in cielo, saresti proprio come Venere. Nell'oscurità, la mia prima luce. Kant con cenere, Kant è scritto K-A-N-T. Sì, come Adam Ant, una volta c'era Adam Ant, adesso andiamo a quest'altra dicitura, K-Ant, con cenere, fra qualche giorno appunto uscirà il suo nuovo album. Tra l'altro come look è facilmente riconoscibile, perché è una cresta un po' punk come si usava negli anni 80, e poi questa lunga trecciolina particolarissima, e quindi facilmente identificabile questo cantante. Allora, ci è piaciuto molto questo pezzo, ma a questo punto io invece vado a così a presentare dei personaggi che non hanno poi grande bisogno di presentare. No, assolutamente, li conoscete certamente, perché stiamo parlando di Nick the Night Fly featuring Sarah Jean Morris insieme a Mario Biondi e poi Paolo Fresu. Ci presentano questo scioglilingua, che è poi regia, mi aiuti lei, Beth. That's what friends are for. Che bravo, come lo dice bene. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way we do today. And then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me for sure. 'Cause that's what friends are for. for good times and bad times. I'll be on your side forevermore, 'cause that's what friends are for. You came and opened me, and now the so much more I see. And so by the way, I thank you. And then for the times when we're apart. Well, then close your eyes and know these words are coming from my heart. And then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me for sure, 'cause that's what friends are. That's what Friend are for. Beh, direi che è una canzone, è un evergreen, dice tutto. Certo, bellissimo inglese, tra l'altro è un evergreen. Beh, poi in Even a Fly è inglese, l'autore Bacharach, l'avete sicuramente riconosciuta la canzone come un evergreen. Questo è praticamente l'unico inedito all'interno di un album che viene ristampato, ripubblicato a 20 anni di distanza dal disco di Nick Benifly, che ha voluto vicino a sé tutti i suoi amici per poi rifare un concertone in quel di Milano, perché proprio il Blue Notes di Milano festeggia i vent'anni come questo disco di Nick Benifly. E quindi ci sono qualche inedito per Nick Benifly, questo album ristampato. Dentro ci sono Mario Biondi, però c'è anche Simona Bencini dei Dirotta su Cuba, se li ricorda i Dirotta su Cuba di qualche anno fa. Ecco, poi c'è Simona Molinari, Nina Zilli, Dado Moroni e poi Paolo Fresu, che abbiamo in sottofondo con la sua tromba, Mario Biondi, Sarah Jane Morris, insomma tanti amici insieme, tanti amici insieme a Nick Venefly all'interno di questo nuovo album ristampato, ripubblicato anche in 180 grammi. Complimenti, e poi soprattutto complimenti al bellissimo posto che è praticamente il Blue Note di Milano, dove si suona jazz e si suona veramente, si suona la musica. Detto ciò, andiamo con la prossima regia. Cosa abbiamo? Beh, non ha la playlist sotto mano. Sì, mi dica, devo rintracciare, devo riaprire. Ecco, brano numero 3. Ah, sì, andiamo, ci spostiamo da Milano a Trieste, dove questo personaggio ne stiamo parlando molto spesso, ci piace molto. Stiamo programmando in lungo e largo molto. Si chiama Ribalta Vapori, ne abbiamo già parlato di lui, magari vi ragguaglio tra pochissimo. Ci ascoltiamo questo nuovo singolo che si intitola Saracinesca. Ascoltiamo. C'è chi mi guarda attraverso una coppia, pensa perverso, si ripara dalla pioggia estiva sotto un tetto, un filo di saliva. Sono una donna di strada, io sono saracinesca, saracinesca. Maglioni in cashmere in offerta, furfante in avan scoperta. Chi lo sa se lui guarda me a metà, le mani che ora chiudono cassa al seno della commessa. Sono una donna di strada, io sono saracinesca, dito gialle all'interno. Sì, il mare esiste anche d'inverno. Oh, non mi dire che non hai perché non hai mai fatto caso a quel che c'è oltre il tuo naso. Questo è il terzo singolo in attesa dell'album che uscirà proprio a breve anche per lui, Ribalta Vapori, si intitolerà così, e questo che abbiamo ascoltato è Sara Cinesca, che nasce da un sogno, racconta un mondo, così il mondo ad occhi aperti, osservando appunto cosa succede. Un po' come nel mondo di Amélie. Esatto, un po' così, un sogno che ad occhi aperti. Metà sardo. Qui piove sempre più forte. Poi. Mamma mia, vabbè, l'ombrello c'è, io ce l'ho. Poi lei non so, comunque metà sardo, dicevo, metà catalano, Antonio Uras si chiama così, Ribalta Vapori, porta dentro di sé il fascino così delle terre di confine, dove ha deciso di così trasferirsi, in quelle di Trieste, dove c'è cioè, proprio è un melting point di praticamente di gente, un di culture point, veramente. Un miscuglio, quindi, per usare una parola in italiano, un miscuglio. Un miscuglio etnico, diciamo così. Il termine Ribalta Vapori, il nome di cui ha deciso di adottare, è praticamente preso in prestito dal dialetto triestino proprio locale, perché Ribalta Vapori è il nome che si usa per così in dialetto un nome per un pesce povero che si trova nei mercati. Ora non ditemi quale, io l'ho mangiato, però non so, non chiedetemi altro, io mi limito nulla a dire ciò, e a questo punto andiamo con di nuovo una canzone inglese, vero? Quindi ho bisogno del suo supporto quest'oggi. Allora, qui abbiamo una band che si chiama The Grudge Project con Even Inside. Grudge Project ci stanno proponendo il loro singolo Even Inside qui a Easy Pop in questa puntata numero 13 di questa improvvisamente piovosa domenica 2 aprile. Fino a poco fa c'era il sole o meno qui in questa zona dove trasmettiamo. Sì, da via Zanardi 369 a Bologna sui 103.10 in FM. Sì, città Fujiko, è proprio così. Allora, The Grudge Project con Even Inside, il pezzo Death che ci hanno proposto, una band post grunge italiana nata nel 2014 a Verona. Ne hanno già al loro attivo un album se non sbaglio, mentre il nuovo è in uscita. Distribuiti dalla Universal, hanno un bel contratto perché insomma il loro primo singolo Gods ha avuto un discreto successo e a questo punto Heavenside è il loro secondo singolo per questo nuovo album. Il brano descrive una situazione caotica, confusa, in cui l'umanità ormai sembra comportarsi in modo folle e irrazionale e in balia appunto delle proprie apparenti scelte. Ottimo pezzo rock, ci è piaciuto molto, ci ha scosso molto. A questo punto abbiamo ancora una proposta musicale, vero Gia? Qui andiamo sulla musica moderna, Paoletti, in tutti moderna? I sensi. Moderna? Beh, oppure? Musica più attuale. Ah, ok, così. Perché non so se sia giapponese, no. Oppure una roba scandinava o che altro. Irretire, confondere dai nomi, eccetera, eccetera. Va bene. Il brano è, diciamo così, molto attuale. Ecco, l'annunci lei il titolo, che è secondo me. Sakura con sì. 2K e la diesi sulla U. E il titolo è NCC 1701. Sakura. Squarcio l'universo in cerca del mio sole, ma quando lo trovo si spegne e muore. Mi rimetto in via. E lo cerca dove nebulose, ma tenete vago nel vuoto dentro di me. Quando sono da solo ci casco perché io non so più cosa fare, cosa mi devo inventare. Fra questa vita è brutale, io sto morendo di fame. Sento che sto per mollare, l'ansia di notte mi assale. Ho sempre odiato le fiabe, ho sempre amato sognare. Mostri che mangiano fate, zombie che invadono strade. Fantasmi dentro le case, bomba termonucleare. Finire dritto nel lato, un killer che mi apre il torace. Perché ciò che mi fa male è ciò che mi rende speciale. Squarcio l'universo in cerca del mio sole, ma quando lo trovo e muore. Mi rimetto in viaggio e lo cerco altrove. Nebulose, nebulose, ma tenete tra le lasso e lassù. Scrudo l'immenso, ma più cerco più non trovo più il senso di vivere. Disperso puoi trovarmi tu, cercami e buio quassù. Vedo una stella laggiù, se potresti essere tu. E mi domando chissà quando è che morirò. Chissà magari a qualcuno poi gli mancherò. Chissà se prima di allora mi realizzerò. Ma se smetto di sognare che cosa farò? Chissà se sarò felice ancora soffrirò. Chissà se avrò ancora amici con cui riderò. Chissà se farò avventure che racconterò. E anche per questa notte no, non dormirò. Squarcio l'universo in cerca del mio sole, ma quando lo trovo si spegne e muore. Mi rimetto in viaggio e lo cerco altrove. Nebulose, nebulose. Sakura con NCC 1701. Beh, io ringrazio e faccio complimenti alla sua redazione musicale. Questo brano non l'avevo sentito, ma cattura parecchio. Assolutamente, le dirò di più. Questo nuovo singolo è fuori in tutte le piattaforme, è stato digitalizzato tantissimo. E praticamente è il nuovo singolo che praticamente rilancia Mattia Sacchetti, ossia Sakura, classe 1998, è di Terracina, ma però insomma adesso è figlio del mondo perché gira un po' ovunque ed è un artista che è stato catturato da TikTok, dove ha imparato tutta questa arte così dello scrivere eccetera. Poi ha una grande passione per i comics, per diciamo la cultura manga, ma non solo, per un cartone particolare e poi addirittura tutto quello che praticamente è inerente al mondo musicale, al rap. E devo dire che tutta questa, ci ha spiegato il motivo del esatto, tutta questa così questo minestrone ha fatto sì che esca la sua arte, perché insomma la sta mescolare molto bene insieme a Effie Horror e non solo. E devo dire che sono molto curioso di andare a vedere le sue cose su TikTok. E devo dare una brutta notizia, dobbiamo un po' correre perché siamo un po' in ritardo. Sì, noi corriamo, non c'è problema, si corre sempre. Cosa abbiamo, regia, adesso? Adesso abbiamo End Logic, casa, stanza, letto, dormio. Anche questo deve essere particolare. Interessante band gli Hand Logic, hanno un nome nel mondo musicale appunto underground, sin dall'EP d'esordio la band si fa proprio il nome grazie alla vittoria del rock contest con di Controradio e poi in grandi date, poi anche partecipazioni al Miami Festival e non solo, e incidono poi per la Woodroom Label, quella di Paletti per intenderci, e poi via via insomma il giro per l'Europa a pubblicare, a portare la loro musica, che poi è cantata in inglese. Questa volta cosa succede? Che nel 2022 gli Hand Logic vengono invitati dai Verdena ad aprire i loro concerti all'Alcatraz, e poi nel 2023, grazie all'incontro con Pioggia Rossa Dischi, che cosa succede? Che decidono di cambiare completamente modo e genere musicale e decidono di cantare alla loro maniera e in italiano. Molto bene Paoletti, ultimo brano di questa tredicesima puntata ce lo propongono gli Angels of Libra featuring Nathan Johnston, Revelations. This frustration, it's doing things to my mind that I can't shake from. Every part of my body is aching. We keep on trying to fix the world, but nothing's changing. Who holds the key to this life? I'm trying so hard to find some way to break these chains that are keeping us restrained, but all I see is pain in the streets, and I'm ashamed. We need to change the way we think before it's too late. These revelations, they can be hard to take. Trouble in the world, I'm losing faith in the powers that control the struggles that we're facing. Every day I feel my heartbeat racing. Every time I watch TV, I can't escape it. Trying to pay my bills on time, but they keep rising. It's a fine line between struggling and dying. Are we just gonna stand by and get stepped on? How much more can you take before you become one? These revelations, they can be hard to take, but it's the same. Su questo brano Revelations, se vuole dire lei il nome? Sì, Angels of Libra, questo è il nome della band con Nathan Johnston come featuring, che poi si è fuso con la stessa band oramai. Se ci vuole dire qualcosa? Sì, praticamente hanno lasciato un po' la soul più soffice per addentrarsi nei meandri un po' più anche pop, e devo dire che con una voce così hanno deciso subito Nathan Johnston sarà il nostro leader, e quindi la band si è fusa direttamente con questa voce incredibile. E su questo brano finale salutiamo tutti coloro che ci hanno ascoltato, in particolare Marzia da Gorizia. Ringraziamo, certo. Pierluigi da Bologna. Un saluto anche a lui, grazie appunto per la fiducia prestata. Che dire, che noi ci sentiamo fra 7 giorni, stesse frequenze, stessa ora. Intanto ringraziamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci hanno ascoltato, speriamo di aver fatto trascorrere loro un'oretta in spensierata allegria. Controllare tutto qua. E, sì, vi diamo appuntamento a domenica prossima, 9 aprile. Anche se Pasqua. ci diamo andremo, adesso gli auguri? No, andremo certo in onda con una puntata speciale, musicale, un po' di selezione dei brani migliori scelti dalla sua meravigliosa redazione musicale. Certo. Per appunto una puntata speciale di Pasqua della serie Easy Pop, non vi abbandona mai. Vi lasciamo la programmazione di Radio Città Fujiko. Per riascoltarci potete farlo andando sul sito www.radiocittafujiko.it, cartellina musica playlist. Perfetto, detto ciò vi auguro già adesso buona festa delle palme e non solo, che cosa, buona Pasqua già anche adesso buona Pasqua in diretta, perché non saremo in diretta ovviamente. Esatto, quindi diciamolo, non abbiamo paura buona di Pasqua. Nulla, grazie per l'ascolto, bye bye da Franco Paoletti e dal Bolognese Volante, bye bye. Avete ascoltato Easy Pop, che vi dà appuntamento a domenica prossima, alla stessa ora, e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fujiko. お力だ鋼鉄神宮。